Flash Bit di Giulia Crivelli. Never mind. The war was lost, the treaty signed, I was not caught, I crossed the line. La guerra è persa, firmato il trattato di pace, non sono stato catturato, ho attraversato il confine. Sono i primi versi della canzone poesia Nevermind di Leonard Cohen, il più bel brano della colonna sonora della serie televisiva True Detective 2, andata in onda su Sky e della quale si sta preparando una nuova parte che forse, chissà, entrerà nel portafoglio di Netflix, la TV on demand via internet che da pochi giorni ha annunciato il suo sbarco in Italia. Nevermind, letteralmente, significa non importa, ma anche lascia stare, fai finta che non te l'abbia detto. Altre due quartine, potremmo dire, della canzone poesia di Cohen recitano: Never mind, never mind, I lived a life I left behind. I live it full, I live it wide, through layers of time you can't divide. Non importa, non importa, vivo la vita che mi sono lasciato alle spalle, la vivo in pieno, la vivo fino in fondo, attraverso stratificazioni, layers, del tempo che non si possono separare. Per restare in ambito musicale, Nevermind è anche il titolo dell'album forse più famoso dei Nirvana di Kurt Cobain, uscito nel 1991, nel quale però non c'è alcuna canzone con questo titolo. Il track, forse anche qui più famoso, è Smells Like Teen Spirit, odora di spirito di teenager. Ma torniamo a Nevermind. Come esempio del suo significato più diffuso possiamo citare la frase I'm sorry I lost that wallet you gave me. Risposta: Never mind, I can easily buy you another one. Mi spiace aver perso il portafoglio che mi avevi regalato. Risposta: Non importa, posso ricomprartelo senza problemi. Un altro significato interessante è nonostante. He's going on a holiday for the third time this year. Never mind the fact that he has hardly any money left. Sta per partire per la sua terza vacanza dell'anno, nonostante non abbia praticamente più un euro. Sfumatura ancora diversa quando Nevermind viene usato per fare un confronto. This is one of the best restaurants in the north of Italy. Never mind Milan. Questo è uno dei migliori ristoranti del nord Italia, non della sola Milano.